9 in punto. Buona giornata, dunque, cari ascoltatori. Oggi parliamo, come si diceva, di adozioni da parte di coppie omosessuali e figli da parte fatti da coppie omosessuali. Ne parliamo perché il fine settimana è stato piuttosto intenso da questo punto di vista, ed è un tema che rimane naturalmente sotto traccia. Venerdì c'è stata una sentenza di Cassazione che ha fatto molto discutere. Alcuni titoli oggettivamente sono stati un po' tirati per i capelli, perché insomma poi la Cassazione fa riferimento a uno specifico caso nella fattispecie, anche se enuncia qualche principio di carattere generale. Partirei, se me lo consentite, così come diciamo nell'anteprima, da qualche dubbio da parte di un eterosessuale, quale io sono. Emotivamente tendo a ritenere che la maniera giusta di crescerli sia in una coppia come la mia, formata da uomo e donna. Insieme mi chiedo quante coppie eterosessuali conosco che crescono i loro bambini nella maniera peggiore possibile. Sono purtroppo tante. Mi dico che per una coppia omosessuale la ricerca di un figlio rappresenta la mera soddisfazione di un desiderio personale dettato dall'egoismo, ma quante volte questo avviene anche nelle coppie eterosessuali? Metto in mezzo la natura, che prevede che un figlio nasca da uomo e donna, ma poi mi chiedo anche quante cose contro natura noi, tra virgolette naturalmente, facciamo quotidianamente. Insomma, se dovessimo vivere interamente secondo natura, insomma, la vita sarebbe radicalmente diversa da quella che facciamo. Oggi ho intenzione di provare a chiarirmi le idee e ho intenzione anche di sentire le vostre opinioni all'800 24 00 24. Saluto innanzitutto e voglio dunque partire da una testimonianza per capire. Saluto Marco Puccioni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Marco Puccioni, delle famiglie Arcobaleno, è un'associazione che raccoglie appunto famiglie di questo tipo. Lei ha due figli con il suo compagno? Sì, esatto. Due figli di che età? 3 anni e pochi mesi. Come quando l'avete deciso e come li avete fatti naturalmente? Siete andati, suppongo, in Belgio, immagino, o in Olanda? Beh, no, diciamo, un po' più complicato, diciamo, il Belgio e l'Olanda sono destinazioni tra quelle preferite delle coppie di donne, perché appunto lì è possibile fare l'inseminazione artificiale con un donatore anonimo, conosciuto, conoscibile. No, per gli uomini di solito la cosa è più complessa, ovviamente. Esiste alcuni paesi al mondo dove esiste la gestazione di sostegno, tra questi il Canada, gli Stati Uniti e diversi altri paesi al mondo, dove appunto questo è possibile, e quindi noi abbiamo intrapreso questa strada e abbiamo conosciuto una donna, insomma, che ci ha potuto aiutare a mettere al mondo i nostri figli. E comunque sentivo prima i suoi dubbi, i suoi dubbi sono stati i dubbi anche nostri per molto tempo, sono i dubbi che si ci siamo fatti per molti mesi, anni, prima di arrivare a capire che questa strada era possibile ed era una cosa legittima e giusta e che non ci sarebbe stato danno soprattutto per i bambini. E questo abbiamo capito conoscendo tante altre famiglie omogenitoriali, leggendo studi, informandoci su quello che sono state le ricerche su famiglie come quella che noi volevamo formare, e quindi dissipando appunto i dubbi che lei ha detto poco prima. Quindi capisco perfettamente le perplessità, i dubbi che ci sono da parte della società, perché sono stati a lungo i nostri stessi dubbi, e credo che solo appunto con la conoscenza e con l'esperienza diretta delle di bambini e di famiglie così costituite si può arrivare a capire ed accettare che una coppia omosessuale possa avere dei figli e che questi figli possano crescere bene, sani, con tutte le possibilità al mondo, come tutti gli altri bambini cresciuti in altri tipi di famiglie. Quanti anni hanno i vostri figli? Ho detto 3 anni. Tre anni. Sono due gemelli di 3 anni, no? Se non sbaglio. Sì. Che dubbi vi ponete sul dopo, diciamo così? Adesso son bambini di 3 anni, insomma, io ho 3 figli, quindi qualcosina ne so, insomma, no? A 3 anni la percezione, anche il rapporto con gli altri, bambini è diverso. Nel momento nel quale cresceranno si troveranno in una situazione particolare, insomma, non sto dicendo, non è una valutazione di merito, non è né peggio né meglio, insomma, si troveranno in una situazione particolare. Ad avere una famiglia di origine con 2 padri, quando probabilmente il 90-80% dei loro compagni di scuola, di classe, amici con i quali giocheranno, avranno invece una famiglia di origine composta da una coppia eterosessuale. Non temete, e immagino il dubbio ve lo siate posto, insomma, che questo per loro possa rappresentare un problema? Sì, certo, anche questo è uno dei tanti dubbi che ci siamo posti. Abbiamo guardato al vissuto di ragazzi, ragazze che sono cresciute in famiglie come la nostra e che adesso magari hanno 20, 25, 30 anni. Quindi abbiamo un po' indagato su quello che fosse stato il loro percorso e insomma anche in questo ci ha confermato che, a parte magari l'episodio omofobico che può capitare, sicuramente magari capiterà, ma che può essere una cosa molto occasionale, diciamo, non è che la loro vita è stata un inferno di discriminazione e di emarginazione. Ci può essere stato l'episodio, ma poi in realtà i ragazzi, la sessualità dei genitori, dei loro amici interessa abbastanza poco, non è un argomento che più di tanto gli interessa. Gli interessa di capire se il loro amico è un amico in gamba, un amico simpatico, intelligente, divertente, piuttosto che sapere che qual è la sessualità dei genitori della loro famiglia di origine. Naturalmente poi questo dipende dalle culture, dipende dalle persone. Noi chiaramente le stiamo abituando già ad apprezzare la diversità del mondo, frequentano persone di tutti i tipi, con diverse culture, quindi sono loro abituati ad accettare la diversità e spero appunto anche gli altri che frequentano siano altrettanto abituati ad accettare la varietà e la ricchezza della diversità del mondo. Puccioni, c'è una domanda che ci arriva già dagli ascoltatori via Twitter, ma che, devo dire la verità, avevo già intenzione di farle. Il momento successivo, ossia l'identità sessuale dei vostri figli, su questo avete ragionato? L'identità, intendo dire l'orientamento sessuale? La scelta, l'orientamento sessuale dei vostri figli, insomma, quando, nel momento nel quale naturalmente cresceranno e sarà il momento. Ma guardi, è molto semplice, quella, né i miei genitori eterosessuali hanno potuto avere alcuna influenza sul mio orientamento, né credo che noi possiamo avere nessuna influenza sull'orientamento sessuale dei nostri figli. Gli elementi che determinano l'orientamento sessuale sono al di là della capacità dei genitori di determinarla, quindi noi ovviamente li accetteremo per qualunque scelta sessuale, siano eterosessuali o omosessuali, non è questo che conta, saranno quello che saranno e siamo comunque consapevoli, come d'altronde è evidente a tutti, che tutti gli omosessuali che sono in giro sono figli eterosessuali, quindi non siamo noi che potremmo determinare il loro orientamento sessuale. Grazie a Marco Puccioni per essere stato con noi. Abbiamo voluto aprire appunto con questa testimonianza per dare, insomma, per dare un segnale, per cercare di capire che cosa c'è. La ringrazio per la disponibilità e le auguro buona giornata. Anche a voi, grazie. Buona giornata. E saluto i nostri ospiti, che sono Anna Paola Concia del Partito Democratico, la conoscete, è molto attiva da questo lato e su questi temi. Buongiorno Concia. Buongiorno a voi. Alessio De Giorgi, che è ancora forse direttore di gay.it, ma sarà candidato per la lista Monti, forse con Italia Futura se non sbaglio. De Giorgi, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, confermo tutto. Conferma, Italia Futura. E saluto Lucetta Scaraffia, docente di storia contemporanea all'Università degli Studi di Roma, della Sapienza, scrive per l'Osservatore Romano, voce autorevole del cattolicesimo. Buongiorno Scaraffia. Solito almeno 2 o 3 contro 1 vedo. No, guardi, è stato veramente un caso. Non si preoccupi, sì, perché tanto insomma avremo i nostri ascoltatori che sì, faranno da. Vabbè. Forse lei non ha sentito l'introduzione, ma nell'introduzione no, ho espresso tutti i miei dubbi su queste questioni. Quindi insomma non si preoccupi, cercheremo di tenere il tutto massimamente equilibrato. Le dico in particolare che poi De Giorgi ci interessa, sì, così lo sa già, perché entra in una forza politica, per così dire, in un ambito politico nel quale si troverà affiancato, ancor più di quello che succede all'interno del Partito Democratico, con forze estremamente vicine al mondo cattolico. Voglio capire anche come la vede lui da questo punto di vista, che cosa ci è andato a fare. Quindi, se vogliamo, è anche l'aspetto più politico della cosa. Lei ha sentito questa testimonianza, Scaraffia? Le chiedo un'impressione innanzitutto. Sì. Guardi, intanto mi ha stupito moltissimo. A parte che ho apprezzato la pacatezza della cosa, ma il fatto che questo signore, scusi, di cui non ricordo il nome, dicesse cose che veramente hanno dell'incredibile. Le dico le cose che mi hanno colpito di più. La prima è questa di dire che il rapporto con i genitori non ha nessun riflesso sull'orientamento sessuale dei figli. Lei sa benissimo che c'è un'intera psicanalisi che parla esattamente di quello invece, e che la costruzione dell'identità sessuale dei figli, come ha scritto anche recentemente Silvia Vegetti Finzi sul Corriere della Sera, si forma proprio nel dire io sono uguale a quel genitore lì e diverso da quello là. Quindi c'è proprio una grande tradizione psicanalitica su cui lui è passato veramente come se non esistesse, pur essendo un signore, da quel che ho capito, molto colto e ben allevato. Secondo punto, lui, quando lei ha parlato sul lungo periodo degli effetti della vita con una coppia omosessuale, ha detto abbiamo visto quelli che hanno 25-30 anni come agiscono, che non hanno avuto problemi. Ora io vorrei ricordare che 25-30 anni fa non esistevano le coppie omosessuali, cioè non esistevano coppie che dicesse, cioè i bambini allevati da coppie omosessuali sono sempre esistiti, non ne dubito, ma io dicevo non esistevano quello che vuole esistere adesso, cioè delle coppie di due papà o due mamme che dicessero ai figli noi siamo la tua famiglia. Cioè c'erano dei figli allevati da due omosessuali che sapevano benissimo di essere figli di uno dei due e di un'altra persona di un altro sesso che viveva fuori della famiglia. Questi possono aver avuto o meno dei problemi, e ovviamente questo deriva dall'ambiente in cui vivono. Se uno vive in una situazione radical chic in cui nessuno sa dire niente, un conto; se uno vive alla periferia di Roma, voglio vedere. Cioè, il problema è che di una legge che non riguarda solo dei gruppi privilegiati e che vivono in ambienti estremamente raffinati e che non ha di politicamente corretti, ma è il mondo in cui vivono, che è molto più vasto e molto più complicato, dove ancora non è accettata l'omosessualità, figuriamoci le famiglie omosessuali. Ora, io penso che dovrebbe essere accettata l'omosessualità come una possibilità di vita umana che ha diritto esattamente quanto le altre, e anzi deve essere rispettata. Però non vedo perché questa omosessualità, visto che due donne e due uomini non possono avere dei figli, non vedo perché devono costituire delle finte famiglie in cui dicono di avere dei figli che non hanno. Soprattutto devo dire che la cosa più grave è quella delle coppie composte da due uomini, perché i loro bambini, come i due gemelli di cui parlava quel signore, sono nati con lo sfruttamento di una donna, attraverso lo sfruttamento di una donna che ha prestato la sua pancia. Ora, io sono fermamente contraria all'utero in affitto, penso sia una delle forme di sfruttamento del corpo femminile più gravi che è avvenuta negli ultimi anni, e quindi penso che già nascere attraverso lo sfruttamento di un altro essere umano mi sembra gravissimo, e far vivere questi bambini dicendo che sono figli di una famiglia quando composta da due padri e due mamme, quando questo non è possibile in natura, che loro per forza hanno una mamma o un papà che non fa parte del nucleo familiare, penso che sia un inganno nei confronti di questi bambini. Ora, un inganno non fa mai bene, lo sappiamo, cioè far vivere i bambini in queste condizioni è sbagliato. I bambini non devono avere, vivere il più possibile, vivere nella verità. Poi certo ci sono bambini che vivono in famiglie eterosessuali terribili. Io non sto dicendo che la vita sia facile per i bambini nelle famiglie eterosessuali, sto dicendo però che una legge deve proporre il meglio per i bambini. Poi la vita si presta a tante, purtroppo tanti dolori, tante forme di sofferenza e di sbagliate, però la legge deve proporre il meglio per i bambini. Il meglio per i bambini è un padre e una madre che siano quelli possibilmente che l'hanno messo al mondo. Posizione chiarissima, Scarafia. Verrei tra un attimo, voglio arrivare già agli ascoltatori, vorrei sentire però intanto Anna Paola Concia, perché tra l'altro Lucetta Scarafia, lei mi conferma che a un certo punto ci deve lasciare, no? Intorno alle 9:30. Ma via un minuto, sì, credo che siamo quasi alle 9:30. Quasi, sì. Quasi, mancano 5 minuti, però insomma sentiamo che cosa ha da dire la Concia. Buongiorno di nuovo. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Lucetta Scarafia. Io ho preso appunti di quello che ha detto Lucetta Scarafia, così sarò schematica. Noi siamo nati tutti, noi omosessuali, da genitori eterosessuali e l'orientamento, probabilmente leggiamo libri diversi, è senz'altro così. L'ordine degli psicologi più volte ha detto che l'orientamento sessuale non condiziona la crescita psicofisica di un bambino e va bene. La questione è, io volevo fare una riflessione con voi, le cose che ha detto Lucetta Scarafia non le condivido, ma insomma entrambe facciamo queste battaglie e alla luce del sole mi auguro di vincerla, io, lei si augura di vincerla, lei. Io vorrei, mentre Lucetta Scarafia parlava, mi veniva in mente se potessimo ascoltare i discorsi di due bambini nati dall'inseminazione artificiale. Uno nato casomai dall'inseminazione artificiale di una coppia eterosessuale e uno nato dall'inseminazione di una coppia omosessuale, i quali bambini evidentemente hanno problemi simili. Ora questa diciamo è una suggestione la mia, faccio questa suggestione per dire che cosa? Che evidentemente i problemi che oggi hanno i bambini, ma insomma Marco ce lo diceva con grande pacatezza e non perché è un radical chic o perché è colto e ben allevato come lo ha giudicato Lucetta Scarafia, perché probabilmente è un uomo che con il suo compagno si è molto interrogato e è rimasto pacato nonostante le parole offensive che quotidianamente vengono dette nei suoi confronti. No, evidentemente, ma non dagli altri genitori piuttosto che dal vicino di casa, ma molto spesso dai mass media, e è rimasto pagato nonostante questo. Ecco, io voglio ricordare che 30 anni fa i figli delle coppie separate erano visti, erano visti come delle figure appunto marziane, dei bambini che avrebbero avuto grandi problemi. Oggi non è più così, nel senso che il fatto che due genitori si possano separare e il bambino possa crescere da madre molto spesso, ma anche col padre, per carità, no? Con un solo genitore, è un dato di realtà e accettato. Ecco, io capisco che non si accetti, lo capisco che non si accetti questa cosa. Ma appunto come lei Spezia diceva nel suo editoriale, insomma nella cosa l'ho anche letta, che cos'è la natura? Forse ci dovremmo interrogare su che cos'è la natura, perché appunto oggi anche una coppia eterosessuale può usufruire dell'utero in affitto, come è noto. e quel bambino che nasce da quell'utero in affitto evidentemente è lo stesso bambino, cioè è un bambino che è come quella coppia eterosessuale, a meno che appunto, come giustamente dice Lucetta Scarafia, solo le coppie eterosessuali possono crescere un figlio, le coppie omosessuali no, perché questo è il tema. Io parto della mia esperienza e da studi trentennali, non in Italia naturalmente, a cui invece invito, se qualcuno sta ascoltando, professori universitari, a fare delle stesse ricerche che hanno fatto in America, in Germania, cioè hanno seguito la crescita di questi bambini nati nelle coppie omosessuali, evidentemente di questi bambini crescono come tutti gli altri bambini. Abbiamo visto questa immagine di questi figli di Jodie Foster, io credo che quella sia immagine sul piano, diciamo, simbolico, l'immagine di questi due figli di lei, che lei, a cui lei dice faccio questa cosa per voi, è l'immagine dei figli delle coppie omosessuali, cioè dei ragazzi come tutti gli altri, che affronteranno la vita con tutte le difficoltà che hanno gli altri. Sicuramente c'è un passaggio che è faticoso, una porta stretta, ma di porte strette nella crescita di questo paese, la crescita nel mondo ce ne sono state strettante, e quelle bisogna accompagnarle con pazienza, con grande pazienza da parte nostra, diciamo, perché e con la stessa pazienza di Marco, nel senso che chiudo, sì. Nel senso che di cose orrende su di noi se ne dicono moltissime, e noi dobbiamo far capire con pazienza quanto invece la realtà sia diversa. Per conoscere le nostre vite è forse la cosa migliore. Grazie a Paola Concia, che resta con noi naturalmente. Io ringrazio Lucetta Scaraffia, che non so se ha già attaccato. Mi sembra che la soluzione della pazienza sia un po' una soluzione molto riduttiva che ha proposto Paola Concia. Mi spiace molto, ma vi devo salutare. Grazie Lucetta Scaraffia, buona giornata. Io prima della pausa, se Carmelo Lauricelli in regia consente, vorrei iniziare a sentire gli ascoltatori. Giuseppe, che ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. Ma io volevo porre così un contributo, volevo dare un contributo a questo problema, da un'angolazione forse mai toccata. Premesso, io sono sposato da una vita, ho dei figli oramai grandi e credo e rispetto le libertà e i punti di vista altrui. Pronto? Sì, ci siamo, pronto? Ci siamo, l'ascoltiamo, l'ascoltiamo, ecco. Giuseppe, prego. Scusi. Però credo che, e questo è il mio contributo, un pochino più a monte si dovrebbe approfondire la tematica, e mi spiego meglio. Questo problema va a toccare anche il concetto di sono cattolico o non lo sono. Il mio approccio e il mio contributo proprio sul punto di vista e sull'angolazione sono cattolico. Mi è capitato. Dopodiché ogni disquisizione può variare, può cambiare, ognuno la interpreta come vuole. Giuseppe, mi venga al punto, Giuseppe. Vengo al punto. Allora, io invito i cattolici a leggere la definizione che dà un signore che penso sia autorevole, che si chiama San Paolo, nella prima lettera ai Romani, la definizione che dà di rapporti contro natura, e definisce esplicitamente il rapporto contro natura uomo-uomo, donna-donna. Qua un cattolico e li definisce come aggettivi poco edificanti. Detto questo, se un cattolico crede e osserva e cerca di interpretare quello che dice un signore che si chiama San Paolo, credo che tutto il resto ne consegua, e tra questo purtroppo, per fortuna o ahimè, anche la discussione sulle adozioni da effettuarsi per le coppie omosessuali. 9 in punto. E però prima di prendere le altre telefonate, abbiamo lasciato un po' da parte in questa prima sezione della trasmissione Alessio De Giorgi, direttore di gay.it, candidato, come sappiamo, per la lista Monti. Allora De Giorgi, io le chiedo una risposta, proprio perché aderisce a una formazione, a un gruppo politico che è molto legato ai cattolici, tanto se ne è parlato in questi giorni, una risposta dalla sua posizione all'ascoltatore che ci ha chiamato. Insomma, dice, insomma, per i cattolici non c'è niente da fare, la posizione è quella e non ci si smuove, non ci si può muovere. Ma intanto buongiorno a tutti. La posizione dell'ascoltatore è comprensibile dal punto di vista, io non la condivido minimamente. Ritengo che, perdoni, ma sento un eco terribile. Sì, è possibile? Anche noi lo sentiamo. Non è che ha la radio accesa? No, non ho la radio accesa. O forse l'auricolare potrebbe essere. No, non c'ho niente. Assicuro. No, dicevo che la posizione è comprensibile. Ovviamente non la condivido. l'affermazione per cui i rapporti tra uomo e donna, tra uomo e uomo, donna e donna sono contro natura, l'affermazione è una vecchia affermazione che tanti hanno utilizzato per demonizzare l'omosessualità, e chiaramente, come dire, fa parte di quella di quelle affermazioni che sono contenute nella Bibbia, nei Vangeli, che sono credo superate dal tempo, dalle situazioni, da quello che l'umanità ha elaborato in 1900 anni, in 2000 anni di storia. Credo che invece col mondo cattolico ci si possa parlare, con gran parte del mondo cattolico ci si possa parlare. Certo, il tema che affrontiamo oggi in questa puntata è sicuramente tra i temi più spinosi, perché su altri temi forse i margini di discussione sono più ampi. Credo che però il metro giusto per discutere di questo argomento è: comunque noi ci troviamo di fronte a delle situazioni che di fatto ci sono. Ci sono perché le tecniche di riproduzione sono migliorate, sono avanzate in questi anni, e quindi ci troviamo di fronte a una sorta di turismo riproduttivo, cioè di persone che con la sensibilità, con la responsabilità che abbiamo colto nell'intervista a quel signore che ha avuto insieme al suo compagno quei due bambini, vanno in altri paesi e utilizzano queste tecniche. Tra l'altro alcuni di questi, lo ricordo, non sono omosessuali, ma alcuni di questi sono eterosessuali, perché il problema con la legge sulla fecondazione assistita che abbiamo in Italia si pone anche per tante famiglie eterosessuali che non possono avere figli. A questa situazione di fatto io credo che prima o poi la politica debba dare qualche risposta, perché al di là del giudizio su queste persone, sulla scelta che hanno fatto, che io condivido ma che tanti altri possono non condividere, e comprendo che possono non condividere, però comunque si pongono alcuni problemi. Il primo problema banale, che è il più grave evidentemente, è se il padre naturale di uno di questi bambini venisse a mancare, questi bambini potrebbero essere strappati all'altro padre, col quale magari sono cresciuti per 5-10 anni, potrebbero essere strappati rompendo quella continuità familiare che credo debba essere invece garantita a tutti i bambini, no? Se io cresco per 5-10 anni, 15 con un genitore, credo di avere il diritto di non cambiare genitore, tra virgolette, mentre invece questo può succedere, perché se ad esempio la famiglia del genitore superstite è contraria, ha tutto il diritto, purtroppo oggi per la legge italiana, di strappare questi bambini al genitore appunto superstite. Posizione De Giorgi, la sua posizione la riassumo, ma mi sembra molto chiara. Dice: ci sono delle situazioni di fatto e la politica deve dare delle risposte, insomma, a prescindere che si sia d'accordo oppure no, queste situazioni ci sono, come ha dimostrato l'intervista che abbiamo fatto in apertura con Puccioni, che appunto ci diceva, insomma, io sono qua, vive qua in Italia e ha due figli con il suo compagno. Voglio sentire qualche altra telefonata, inizierei da Maria Claudia che ci chiama da Modena. Buongiorno. Buongiorno a lei e complimenti per la scelta del tema in una giornata così fredda, è un tema bel caldo. Io fondamentalmente sono dunque sposata da 40 anni, eterosessuale e cattolica, ma non ho una visione così ristretta come quella dell'ascoltatore che mi ha preceduto. Fermo restando che credo che la cosa più importante sia crescere in modo equilibrato un bambino in qualunque famiglia viva. Sono d'accordo sull'adozione, perché è sicuramente meglio qualunque tipo di famiglia, se sana, e piuttosto che un orfanotrofio. Però faccio un po' fatica a essere d'accordo sull'inseminazione o sull'utero in affitto. Perché è d'accordo sull'adozione, Maria Claudia? Perché appunto le dicevo che piuttosto che la vita in un orfanotrofio, credo che in una qualunque famiglia, pur se equilibrata ovviamente, sia eterosessuale che no, sia vantaggioso per un bambino. Sentiamo anche Vittorio dalla provincia di Genova, buongiorno. Vittorio? Ci sente? No, oggi abbiamo qualche problema con i telefoni. Ci ha raggiunto intanto anche Paola Binetti, buongiorno. Buongiorno a voi. Candidata dell'UDC in Abruzzo, se non sbaglio, quindi... capolista a Roma, capolista in Liguria e in Abruzzo. E in Abruzzo, quindi anche con la Concia che è al telefono con noi e che è naturalmente candidata in Abruzzo, che è la zona dalla quale lei proviene. Dunque... lei non ha sentito, immagino, l'inizio della trasmissione. No, abbiamo ospitato una testimonianza di un uomo che con il suo compagno ha due figli di 3 anni, e appunto si sta parlando di adozioni e di possibilità di avere figli per le coppie omosessuali. Ci scrive un ascoltatore via Twitter, e questo mi sembra una questione interessante che le vorrei porre subito, insomma, no? Ci dice avere figli è un desiderio naturale, perché una coppia gay, una coppia omosessuale non dovrebbe coltivare questo desiderio e, come dire, portarlo a termine? Sembra che avere figli è un desiderio naturale di tutti, però per avere un figlio necessariamente, dal punto di vista di come la natura ha predisposto, ci vuole una madre e un padre. Quindi tenga presente che quando si dice una coppia gay ha un figlio, questo figlio è sempre comunque, dal punto di vista naturale, figlio di uno dei due genitori, dopodiché vive in un contesto che può essere un contesto affettivamente molto intenso, che può essere un contesto anche capace di stimolarlo, di svilupparne le capacità, i talenti, però vive in un contesto che è particolare. Binetti, la interrompo perché così facciamo un passo avanti, perché nella prima parte della trasmissione abbiamo avuto Lucetta Scarafia. Ci sono due questioni che voglio porre. Una è stata posta da Anna Paola Concia e l'altra da Alessio De Giorgi, che tra l'altro è candidato nel suo stesso ambito con la lista Monti, esattamente. Sì. E i due dubbi sono questi. Il primo, la questione che esistono situazioni simili anche per le coppie eterosessuali dal lato appunto dell'inseminazione artificiale. Certo. E dall'altro lato, diceva De Giorgi prima, è un ragionamento interessante questo, esistono delle situazioni di fatto, ne abbiamo ospitata una all'inizio della trasmissione, e a queste situazioni di fatto bisogna forse dare una cornice legale. Allora, a mio avviso, peraltro così come sotto altri aspetti recita la Costituzione italiana, ogni bambino ha diritto ad avere una famiglia e ha diritto ad avere tutte le tutele possibili per garantire le migliori condizioni del suo sviluppo. Il diritto del bambino alla famiglia non è in discussione, e anche il fatto che comunque la legge debba tutelare questi bambini, io direi non solo come tutti gli altri, ma più di tutti gli altri, come sempre si tutela un bambino che nasce in una condizione più problematica di un altro. Questo non è in discussione. Però vede, quello che io contesto sono due cose che mi sembrano importanti. Per esempio, ci sono 30.000 famiglie che aspettano di avere un figlio in adozione e ci sono 5.000 bambini che possono essere dati in adozione. È logico che il giudice valuti le famiglie e scelga quelle che sembrano maggiormente in grado di offrire a questo bambino condizioni che sono quelle del bambino e non quelle del desiderio dei genitori. La seconda cosa, non possiamo confrontare sempre la coppia omosessuale scegliendo una coppia di buon livello sociale, di buon livello economico, con un adeguato livello anche di intesa e di armonia tra di loro, e sull'altro piatto però invece dire c'è una famiglia violenta, c'è una famiglia aggressiva, una famiglia eterosessuale, c'è una famiglia che è andata incontro a fenomeni di disgrazione. Cioè, noi non possiamo mettere l'accento sulle condizioni ottimali nel paragone della coppia omosessuale, che si amano, che si rispettano, che sono in grado di dare tutto a questo bambino, e dall'altra parte invece scegliere, come dire, la coda di quelle che sono le famiglie problematiche, le famiglie a rischio, le famiglie molte volte che sono andate incontro a processi di rottura, di ricostituzione. Noi dovremmo scegliere due famiglie di pari condizioni. Dovremmo scegliere una condizione in cui un bambino può avere una mamma, un papà, uniti, dei fratelli, può avere dei nonni, può avere un contesto familiare che è totalmente capace di rispondere ai suoi bisogni. Dall'altra parte c'è una coppia omosessuale che perlomeno per ora non ha un vincolo necessariamente stabile, perché noi dobbiamo immaginare che le coppie eterosessuali, i matrimoni vanno incontro, lei lo sa meglio di me che le statistiche dicono che le separazioni sono quasi tante quanti sono i matrimoni, e dovremmo pensare che invece nell'ambito delle coppie di fatto questo non succederà. Cosa dobbiamo pensare? Che l'affettività è tutta sbriciolata quando è vissuta da una coppia eterosessuale, e invece questa affettività ritrova una forza, un'intensità, mi sembra un paragone oggettivamente, perlomeno statisticamente, improbabile. Eppure nella propaganda che si fa oggi è il modello Mulino Bianco, riguarda la famiglia omosessuale. Il modello in cui le tensioni, le disgregazioni e le violenze sono presenti riguarda la famiglia eterosessuale. Mi creda, è ideologica, è demagogica. Questa è una sua idea. Il discorso lo capisco. Dico solo questo, che lei non mi ha risposto alla domanda sulle situazioni di fatto, sulle situazioni di fatto. L'ho risposto dicendo che il bambino che c'è nato, il bambino che sta in una famiglia, in una coppia così, merita tutte le tutele possibili. Le ho detto anche che addirittura, come succede a ogni bambino che vive in un contesto che potrebbe essere problematico, merita una tutela in più, perché il bambino che c'è. Ma noi quando facciamo politica guardiamo all'orizzonte che si potrebbe anche creare, e io credo che personalmente noi dobbiamo sostenere, supportare, difendere e tutelare le famiglie così come ce le descrive, non la nostra Costituzione ma la nostra tradizione. Una mamma, un papà, dei fratelli, dei nonni, cioè queste sono le famiglie di cui noi parliamo, e questo è il contesto a cui io vorrei che la legge desse maggiori garanzie. La fermo, abbiamo la viabilità. Strade in diretta. Buongiorno, sono trafficate tutte le principali città, a Roma in particolare segnaliamo code dopo un incidente sul raccordo anulare tra la Buffalotta e l'innesto con la 24 in carreggiata interna. Si viaggia con difficoltà anche sull'Autosole a causa di un incidente tra Valdarno ed Arezzo in direzione Firenze. Codi a tratti poi per un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. Altre code sulla 4 Brescia-Padova per un incidente che ha coinvolto mezzi pesanti ed ora risolto tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Padova. Attenzione inoltre al maltempo, piogge sparse sulle regioni occidentali e sulle isole maggiori, nevica debolmente sull'Appennino Tosco-Emiliano e sul Triveneto. Segnaliamo in particolare forti piogge tra Sicilia e Calabria. Ed è tutto, appuntamento tra un'ora. 9 in punto. Voglio adesso sentire qualche ascoltatore che abbiamo un po' tralasciato negli ultimi minuti. Inizierei con Paolo che ci chiama da Venezia. Buongiorno. Buongiorno. Prego, vi chiedo solo, lo chiedo a lei per chiederlo a tutti, di essere innanzitutto di abbassare la radio perché sento il mio eco che proviene dal suo telefono, e in secondo luogo di essere molto compatti perché insomma siamo quasi a ridosso della chiusura. Prego. Guardi, la mia radio è spenta, mi dispiace soltanto intervenire nel momento in cui è arrivata la signora Binetti per dire le cose che devo dire, perché nei suoi confronti io non provo nessuna affinità culturale, eppure ciò nonostante devo dire che trovo ripugnante questa idea dell'utero in affitto, la considero ripugnante anche per una coppia eterosessuale, quindi a maggior ragione, o comunque per la stessa ragione la considero ripugnante per una coppia omosessuale. Io credo che un figlio debba nascere da un rapporto d'amore, quindi non vedo come possa esserci un rapporto d'amore con una donna che non si conosce e con un utero indefinito. Grazie Paolo per il suo intervento, poi ne parleremo. Abbiamo anche Massimo che ci chiama da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo solo fare un breve intervento perché diciamo io sono eterosessuale, ho una famiglia attiva. Ho adottato due bambine in due tempi diversi e volevo solo diciamo informare gli ascoltatori che siamo stati tartassati. Abbiamo subito dei processi da parte degli assistenti sociali per stabilire se noi eravamo idonei o no. Ora, a fronte di quanto diciamo può essere il desiderio di una famiglia omosessuale di avere bambini, io direi anche sia importante pensare ai bambini e a pensare alle centinaia di migliaia di coppie eterosessuali che vogliono adottare e che sono tartassate con dei processi che prendono dai 3 ai 5 anni prima di poter avere questo bambino. Io credo che la precedenza, siccome i bambini non hanno frontiera, secondo me, i bambini possono essere di tutti, ma diamo la precedenza a quelle che sono le famiglie che più o meno rispecchiano la natura. La frase "i bambini possono essere di tutti" era un po' infelice, ma ho capito esattamente che cosa voleva dire. Voglio sentire anche Biagio, che ci chiama da Parma. Buongiorno Biagio. Pronto? No. Non ci sente, non ci sente nemmeno Biagio da Parma. Oggi evidentemente abbiamo qualche problemino con i telefoni. Anna Paola Concia, che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione, vorrei riprenderla adesso per un po' di risposte. Sì, sì. Tanto alla Binetti quanto agli ascoltatori. Sì, sì. Anche a lei chiedo estrema brevità. Sì, sì, segnato tutto così sarò schematica. Dunque, ci sono, ieri era del Corriere della Sera un articolo in cui racconta che ci sono 2200 bambini che in questo anno, nell'anno passato, sono in Belgio, sono nati da coppie di donne lesbiche, perché appunto poi si parla giustamente, capisco anche perché si parla sempre di padri, no? Di due padri, ma diciamo che di due padri, una coppia di uomini, ma appunto l'anno scorso in Belgio sono 2200 bambini da inseminazione artificiale da una coppia di due donne, e non, è evidente che non c'è l'utero in affitto, e dicono c'era un centro cattolico in Belgio che diceva: noi non possiamo più essere ideologici perché questa è una situazione e stanno finendo, la banca del seme sta per essere prosciugata, questo avevano detto. No, quindi a proposito di quello che dice Alessio, e cioè ci sono dei dati di fatto, esistono 100.000 bambini in Italia che vivono in una situazione di coppie omogenitoriali. È stata la prima proposta di legge che io ho presentato, quella di cui parlava Alessio. La legge già c'è, mi pare di capire anche dalle parole di Paola Binetti, a cui do il benvenuto in Abruzzo, che la legge sull'omogenitorialità, cioè sul riconoscimento del genitore non naturale, è una legge che si farà, perché mi pare evidente, se Paola Binetti dice, Alessio lo so perché lo conosco bene, se Paola Binetti anche dice che bisogna, i bambini sono tutti uguali, questi bambini oggi che vivono in famiglie omogenitoriali non sono uguali agli altri bambini. Concia, quindi... la fermo un attimo. Binetti, si farà questa legge secondo lei? Bisognerà vedere come è scritta. Noi è da tempo che diciamo che ci sono delle condizioni che sono diventate necessarie, che richiedono una regolarizzazione di determinate situazioni. Se questa legge sarà scritta in un determinato modo che ognuno di noi si sentirà di sostenere, si potrà fare. Di fatto Paola sa perfettamente, anch'io sarò contenta di confrontarmi con lei in Abruzzo, lo facciamo da 5 anni. Le dico, anch'io sono... penso che ci siano dei diritti che sono dei diritti individuali, attenzione, in questo caso applico l'espressione diritti individuali non solo ai due partner della coppia, ma le applico anche al bambino. Ci sono dei diritti individuali del bambino che vanno comunque tutelati, anzi vanno proprio garantiti, su questo stia tranquillo. Però io voglio dire solo una cosa che veramente rappresenta un po' un'evoluzione di questo processo. Pensi per esempio sia in Inghilterra sia in Spagna, in cui a un certo punto sostituiscono i termini mamma e papà, madre e padre con genitore 1, genitore 2, genitore A, genitore B. Poi subentra anche tutto un cambio nel lessico, un cambio nella cultura, in cui necessariamente il senso della famiglia, che tradizionalmente la prima parola che i bambini imparano, tutti noi che abbiamo imparato, è mamma. Io le garantisco come medico che l'ultima parola che i malati dicono prima di morire, qualunque sia l'età che hanno, è mamma. Cioè vuol dire, ci sono delle relazioni che hanno una pregnanza affettiva molto particolare. Però io credo che se ci saranno le condizioni, davvero, lo dico formalmente con un impegno esplicito, per poterla votare positivamente una legge che difenda i bambini, ne difenda i diritti, ne difenda le condizioni, io sono sempre stata a favore dell'infanzia. La ringrazio, grazie anche a Paola Binetti, Anna Paola Concia, Alessio De Giorgi, chiedo scusa agli ascoltatori che sono in attesa e che non riescono ad intervenire, un ringraziamento a Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanida in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione, Rosa Eleonora e Sabrina al centralino anche per oggi, io vi auguro buona giornata, ci sentiamo domani dopo il Giro delle 9. Radio 24, la passione. Si sente.